davanti lì. Sicuro? Secondo me. Ci moriamo? No. Ma che è? Sembra privato. E usciremo? Dal muro non credo. A fine secondo me pensa. No. Perché mi sa che non ci sono le leggi, no? Autobus fa bisogno di cervello, eh? Non lo so. Ma sono all'ovole. Quello che è successo, mannaggia, vedo la luce di fuori, siamo quasi arrivati, credo. Poi mi rapporto con questa cosa qui. Perché le colonne lì ci sono sotto? No, alcune no. Se te c'hanno l'obbligo di fermata, se te c'hanno il semaforo. Sembra questo ferma, fammi capire. Ma cosa c'è? Fammi passare tutti. Ma no. No. Io penso che potete dire volte qua. Ma io veramente però. Ma che allora, c'è un ombrello mi sono colto. Wagen Halt significa vagone fermo. Io non mi piace, non mi piace. Vero? Pensavo che mi piace tutta la stessa. Hai visto quel? Hai visto quel? Hai visto che il drago Matteo Swarovski 17.000 euro? Manco la macchina 10.009 il cavallo. Per immagine se ti casca per terra. Ma l'hai visto fuori dei... Hai visto quello, cioè, hai visto quello per la sala, al posto di mettere quello su nel tavolo della sala e c'hai quel vaso te, no? Hai visto quelli che sono uguali, che vanno su così, che hanno una un bracciale intorno di Swarovski e quello sempre fatto a piatto quanto la è bello. Sta benissimo. 200 euro costa, 2 euro in più. Perché quello che c'hai quanto costa? 2 euro? No, cioè, allora, già mi sono rotto quello però. Mi pare che mi ha rotto mai niente.